Ma questo meccanismo di mettere l'idrogeno dentro il metallo, perché? Come ci sono fatti ad arrivare? E qua scopriamo un'altra cosa, che è un altro tipo di arma, non nucleare questa, da cui l'arma nucleare è derivata, diciamo così, per una circostanza fortunata, non per l'umanità, ma per i militari, che c'era una proprietà ben nota dell'idrogeno nei metalli che gli ingegneri militari hanno pensato di usare a scopi bellici. Cioè l'idrogeno si scioglie in moltissimi metalli, quasi tutti, sono pochi quelli in cui non si scioglie, ma non si scioglie in forma di molecole, ma si scioglie in forma di nuclei. Cioè nel senso, prendiamo una molecola di idrogeno che è fatta da due atomi di idrogeno legati insieme. Ogni atomo è fatto da un nucleo e un elettrone, quindi la molecola di idrogeno sono due nuclei e due elettroni. Non appena entra nel metallo, per ragioni che non stiamo a discutere, che non sono capite dalla scienza convenzionale, gli elettroni si staccano e vanno e si mescolano con gli elettroni del metallo. Quindi i due nuclei restano da soli e si sciolgono, si distribuiscono dentro il metallo come nuclei. Non, tra l'altro è questo che rende possibile la fusione fredda. Perché abbiamo nuclei, non abbiamo atomi, cioè gli elettroni si tolgono dalle palle. Allora, gli elettroni dell'idrogeno. Letteralmente. Sì. Allora, se io prendo quindi questo pezzo di metallo, ci stanno i nuclei di idrogeno dentro. Adesso supponete che io sparo, anzi, innanzitutto per facilitare una dispersione, anziché pigliare un metallo compatto, piglio una polvere, cioè fatta tanti granuli piccoli, ognuno dei quali pieno di idrogeno. Dopodiché sparo un colpo, quindi il proiettile contiene dentro di sé questa polvere, sparo un colpo che colpisce un disgraziato. Questa è proprio un'arma anti-uomo, per le pari opportunità anche anti-donna. Il colpo raggiunge la persona, magari una piccola carica esplosiva disperde tutti questi granuli dentro il corpo della persona. I granuli separati tra di loro si rompono e liberano l'idrogeno che ci stava dentro. Questo idrogeno che esce non è il pacifico idrogeno molecolare in cui gli atomi sono soddisfatti della loro unione e stanno insieme, ma sono nuclei che sono ansiosi di legarsi perché il nucleo da solo è instabile, cioè si deve legare a qualcuno. Allora si guarda intorno e i primi atomi che trova si acchiappano. In particolare, gli atomi con cui l'idrogeno si accoppia meglio sono gli atomi di ossigeno con cui fa l'acqua. No? Allora, la materia vivente è ricchissima di ossigeno, risultato, mandando questo materiale in un corpo, questi granuli liberano un fiotto di idrogeno nucleare, non idrogeno molecolare, il quale diventa un ladro di ossigeno, si assorbe l'ossigeno. Cosa produce? Acqua, l'acqua non desta sospetti, è l'acqua è un componente normale della materia vivente, quindi. E però qual è il risultato? Che la materia vivente viene potentissimamente deossigenata e si determina in questo modo una ferita orribile, spaventosa, che sono le ferite che i medici di Gaza hanno trovato su coloro che sono stati colpiti dalle armi israeliane nell'ultimissimo exploit. Cioè, primo, cadaveri. Voi avete un uomo di 1,70 m, per esempio, il cadavere è 1,10 m, potentemente rimpicciolito. Vedete il foro d'ingresso del proiettile, piccolo piccolo, non vedete il foro d'uscita. E facendo l'autopsia non si vedono tracce di nulla. È chiaro, perché i pallini sono troppo microscopici per essere visti e non c'è la cenere dell'esplosione, diciamo così, perché la cenere dell'esplosione è acqua. Però che si vede? Che tutto il tessuto è andato istantaneamente in cancrena. Non circola più sangue. Cioè, quello che si vede, non esce sangue. Perché? Perché data la perdita di ossigeno, il sangue viene istantaneamente coagulato dappertutto. Quindi le ferite non sanguinano. Capite? dato che è stato eliminato l'ossigeno, tutto va in cancrena, ma in un tempo brevissimo. Cioè, normalmente in una situazione patologica la cancrena richiede giorni, qua richiede minuti. Cioè, dal momento in cui era colpita al momento in cui andava all'ospedale, quindi quando ci avrà messo mezz'ora al massimo, arrivava già in cancrena. E i medici questo l'avete visto nella trasmissione di Iacona domenica scorsa, la domenica precedente, Impresa Diretta, ha fatto vedere queste cose, di queste armi, che si chiamano in gergo DIME, scritto DIME, D-I-M-E, che sono le iniziali di Dense, di I vuol dire inert, M vuol dire metal e E vuol dire explosive. C'è una contraddizione logica in questo nome, perché se è inerte non è esplosivo, quindi che vuol dire? Dice esplosivo con metallo inerte denso, e è la descrizione che vi ho dato. Normalmente loro, ovviamente, per non far capire di questo si tratta, nelle descrizioni che stanno in internet di queste armi, di tutto si parla tranne che dell'idrogeno, perché quello è il principio attivo. Il metallo mica può produrre questa devastazione che si osserva. Allora che cosa succede? Allora, probabilmente, adesso facciamo un po' tipo Sherlock Holmes, i militari per prima cosa hanno studiato questo tipo di armi, che infatti sono le più diffuse e usate, questo tipo di armi. Dopodiché, ovviamente, veniva l'avidità di farle sempre più potenti, quindi metterci sempre più idrogeno, sempre più idrogeno, sempre più idrogeno, finché inavvertitamente, senza saperlo, hanno superato la soglia della fusione fredda di cui ho parlato all'inizio. A questo punto sicuramente qualche laboratorio militare è stato raso al suolo dalla esplosione che è avvenuta inavvertitamente, e loro hanno imparato che esisteva anche questo fenomeno nucleare. Per cui queste armi, se vengono caricate di idrogeno al di sotto della concentrazione critica, sono armi del tipo che vi ho descritto adesso, e se invece la concentrazione è superiore diventano armi nucleari, e quindi tutto lo spettro di queste armi può essere usato.